prudentemente. E l'altesco così, e l'altesco il cotechino, matematico. A volte mia moglie mi fa, al posto delle lenticchie, mi fa i fagioli stufato. Come le lenticchie, mi fa i borlotti col cotechino. Ma che roba! Ottimo, ma qui mi sa che tra poco devi andare a tradurre, perché mi sento la persona. Con la verdura, a me non piace, a me piace la pizza classica.